Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, via Zanardi in Bologna, naturalmente sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, ma anche sul web tramite la app che potrete tranquillamente scaricare a gratis dal nostro sito radiocittafujiko.it. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì per un paio d'ore circa si preoccupa di farvi ascoltare brani live di ogni genere e di ogni epoca. Città Fujiko Live Club che inizia sempre con una novità, naturalmente anche oggi è una cosa un po' particolare, nel senso che non è propriamente una novità, ma come spesso accade si tratta di una ristampa. Ma il caso particolare è che non è una ristampa, ma tre. L'8 ottobre del 1991 fu pubblicato un doppio CD che racchiudeva le highlights di una serie di concerti che Eric Clapton diede fra il gennaio-febbraio del 90 e il febbraio-marzo del 1991 in quel della Royal Albert Hall di Londra. L'album si chiamava 24 Nights perché appunto racchiudeva il meglio di questo insieme di concerti che arrivava fino a 24 serate non consecutive, però 24 serate nel corso dello stint, diciamo, del 1991. E furono serate un po' particolari perché erano abbastanza diverse. C'erano una serie di serate di concerti con chiamati Rock Night con una band di 4 persone, un'altra Rock Night con una band di 9 persone, poi una serie di Blues Nights con musica blues e musicisti dedicati alla musica blues, e per finire una serie con l'orchestra. Il 23 giugno del 2023, cioè poche settimane fa, è stato pubblicato un mega box che contiene 6 CD e 3 Blu-rays più un book, quelli che gli americani, gli inglesi chiamano table book, cioè quelli che per leggerlo devi appoggiarlo per forza a un tavolo, tanto è grande, tanto è pesante, e questo mega box è costosissimo, ma per fortuna sono stati pubblicati anche in tre occasioni, nel senso che sono 2 CD per 3, gli stessi che sono poi inseriti nel mega box. Mi spiego. Prossimamente, oggi, la prossima trasmissione è al ritorno dalle ferie, vi beccherete 3 volte Eric Clapton, perché i doppi CD che ci andiamo ad ascoltare sono appunto relativi al rock, al blues e all'orchestrale. Credo e spero che non abbia bisogno di presentazioni Mr. Eric Clapton, musicista eccelso che è in giro dal 1963, quando cominciò con gli Yardbirds. Poi non vi sto a spiegare la carriera, magari ve ne parlerò durante il corso di queste 3 trasmissioni che in pratica sono dedicate a lui. E come dicevo, sono 3 occasioni, 3 tipi musicali diversi: rock, blues e orchestrale. Ho pensato oggi di cominciare con quello orchestrale perché è quello un po' più particolare, un po' meno conosciuto, ed è un doppio CD con DVD che è molto molto intrigante, molto bello. La l'orchestra è guidata da Nick Heyman, che è un direttore d'orchestra molto famoso, che ha collaborato in diverse occasioni sia con Clapton che con altri musicisti rock, e ce l'andiamo ad ascoltare subito dopo tutte queste chiacchiere. E il pezzo che ho scelto, lo state già sentendo in sottofondo, è la versione orchestrale di Leila, che viene soprattutto nella parte finale, viene veramente sublimata, e non ho remore a dire questo termine. Eric Clapton, il pezzo si chiama Leila. We'll be right back. una canzone da sempre nella mia top 10 personale, in tutte le versioni mi fa veramente impazzire, ma questa è splendida, oserei dire, la versione orchestrale di Leila, che è contenuta in questa sorta, chiamiamolo così, di ristampa, perché i brani che sono in questa sezione orchestrale sono praticamente il quadruplo rispetto a quella originale. Forse ho dimenticato, mi sono spiegato molto bene prima nella foga, ma appunto, oltre al mega cofanetto con 6 CD e 3 Blu-rays, sono stati pubblicati questi altri tre doppi CD, che però invece del Blu-ray hanno il DVD allegato, quindi sono 3 più 3 più 3 più 1 più 1 più 1 dei DVD. Più casino di così non potevo fare. Fatto sta che questa Leila, secondo me, è veramente splendida. Il tutto appartenente a questa 24 Nights Orchestral. E a questo punto volevo inondarvi di registrazioni effettuate in questa venue, la Royal Albert Hall, appunto. Giusto due cose: sita a Londra, naturalmente, South Kensington, di fronte ai Hyde Park. È stata inaugurata il 29 marzo del 1871 dalla regina Victoria in memoria di suo marito, il re Alberto, appunto, che era morto qualche anno prima. Il tutto è stato rinnovato prima nel 1996, poi nel 2004. Sono 5.272 posti seduti in una venue che è lo stato dell'arte per quel che riguarda la qualità sonora. Eric Clapton, ridendo e scherzando, ha suonato più di 200 volte alla Royal Albert Hall, nelle varie versioni, naturalmente Yardbird, Scream, Blind Faith, eccetera eccetera, anche con Delaney and Bonnie and Friends, e sono già programmati i concerti per l'anno prossimo, che saranno in maggio, e sempre per adesso mi sembra che siano 4, ma sono quasi sicuro che poi aumenteranno. Volevo inondarvi di cose registrate alla Royal Albert Hall, e in effetti c'è, inondare è una parola veramente brutta in questi momenti, me ne scuso. Volevo farvi ascoltare una pletora di registrazioni effettuate alla Royal Albert Hall di Londra, e ce ne sono veramente tantissime, per cui posso permettermi di dividere anch'io queste registrazioni fra orchestrali, rock e blues. Cominciamo con l'orchestrale, naturalmente siamo qui ascoltando questo 24 Nights Orchestral, e andiamo con i Moody Blues, pionieri del progressive, sono stati fra i primi a generare questo genere, scusate il gioco di parole. E oggi, proprio, forse già il caldo che è incombente, non è che sia lucidissimo, diciamo. Comunque, alla Royal Albert Hall, il 1 maggio del 2000, i Moody Blues hanno registrato insieme alla World Festival Orchestra quel brano che è la loro, quella che si chiama Signature Song, cioè la loro canzone sicuramente più famosa, si chiama Nights in White Satin. Just what the truth is. can't say it anymore, 'cause I love you. People, some hand in hand, just what I'm going through, I can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, what you want to be, you will be a man, and I'll love you. Yes, I'll love you. Oh, yeah. Oh, yeah. Never reaching the end. Letters I've written, never mean to send. Beauty I always knew, with these eyes before. L'unica band americana che ascolteremo in questa prima parte della trasmissione è anche la più cacciarona, fra l'altro. Si chiamano Altered Bridge, è una band che è stata formata da tre ex membri dei Creed, una band che è stata molto attiva nei primi anni 90. È una band che vede al proprio interno la voce, l'avete sentita, di Myles Kennedy, che è famoso anche per essere il compagno di merende di Slash nelle avventure soliste del chitarrista di Guns N' Roses. Il tutto è stato registrato, sto parlando degli Altered Bridge, insieme alla Parallax Orchestra. È stato registrato il 3 ottobre del 2017, naturalmente Royal Albert Hall di Londra. La maggior parte delle cose registrate con l'orchestra sono naturalmente appannaggio di gruppi progressive o più o meno sul genere, ce ne sono però alcune che esulano da questo campo, ed è il caso della band che ci andiamo ad ascoltare adesso. Si chiamano Gene, scritto Gene, ed è una band che in Gran Bretagna è molto molto idolatrata, forse anche un po' troppo per quel che mi riguarda. Comunque è stata attiva dal 1993 al 2004, quindi dovevo parlarne al passato. Nel 1997 pubblicarono un paio di singoli che comprendevano lo stesso brano, che si chiama We Are They Now. E uno era con questo brano in studio più due brani dal vivo, invece l'altro, che è quello che ho tra le mani, il CD2, è completamente dal vivo, quattro brani, fra cui quello che vi ho detto, la title track, appunto Where Are They Now, e che è stato registrato appunto il 1 marzo del 1997 con la London Metropolitan Orchestra alla Royal Albert Hall. Ce l'andiamo ad ascoltare, loro sono Gene. Thank you very much. This is going to be our next single, and this song is called Where Are They Now? You said that I should look to the future. I've seen and I'll stay here. The winter, I can't find the time to live. The smallest gentle gesture is the enemy at bay. All I needed was a word. Where are they now? The sky seems a little lower, but for that a normal day. Too much, what are they now? stop trying to call you. You've had it up to here, and I know you're so hard, but I just can't ignore you. Ai tempi di Rattus Norvegicus, il loro album d'esordio, nessuno avrebbe detto che prima o poi gli Stranglers avrebbero fatto un album con tanto di orchestra, anche se un'orchestra ridotta alle sole strings, ai soli violini, alle sole corde. Però è successo, era un venerdì, tra parentesi, un venerdì 13, che ha visto questi Stranglers, appunto, che già erano un po' alato, per meglio dire, del movimento punk, avendo nel proprio organico un tastierista che costruiva il suono e non era solamente d'accompagnamento. Ma loro furono veramente notevoli, come notevole il brano che ci siamo ascoltati. Questo naturalmente era No More Heroes, il tutto registrato venerdì 13 giugno 1997 con gli Electra Strings. Personaggio che invece, soprattutto ultimamente, ha avuto a che fare spesso con l'orchestra, Elvis Costello, che molti di voi conosceranno e apprezzeranno, che è proprio in questi giorni in Italia con tre concerti insieme a Carmen Consoli, una coppiata che mi lascia molto perplesso, ma questo è un discorso personale. Il suo primo singolo, che era Less Than Zero, è stato pubblicato nel marzo del 1977, quindi da tantissimo tempo sulle scene. Ha fatto un sacco di cose, fra cui questa I'm Your Toy, che ci andiamo ad ascoltare, da un 12 pollici di tanti anni fa. 12 pollici sono i vinili, quelli grandi, che è come il long play, che però suonano a 45 giri. Il tutto registrato il 7 gennaio del 1982 con la Royal Philharmonic Orchestra, niente po' di meno. Elvis Costello, I'm Your Toy. This is called I'm Your Toy. Carpet of the Sun. Oh, La Royal Philharmonic Orchestra, che prima ha accompagnato Elvis Costello con tanto di vinile che saltava, accompagna anche questi Renaissance in questo concerto registrato il 14 ottobre del 1977. Carpet of the Sun, il brano che è uno dei brani di punta di questa ottima band, che è attiva dal 1969 con però parecchi break. E siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte. Purtroppo il tempo è tiranno, ci sarebbero ancora tantissime cose da ascoltare, brani registrati dal vivo alla Royal Albert Hall con l'orchestra. Citerò solamente i Camel, i Deep Purple, che furono coloro che iniziarono tutto nel 1969 con il loro concerto for Group and Orchestra, gli Spiritualized e altri che appunto il tempo mi impone purtroppo di non farvi ascoltare, perché è arrivato il momento della pubblicità. We'd like to do an old Ray Charles song that I put onto the Journeyman album. It's called Hard Times. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't you forget to pray, 'cause there'll be hard times. Lord, those hard times, and who knows better than I. Soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking about hard times. Oh, those hard times. Who knows better than I. È stato lo stesso Eric Clapton a introdurre questo brano, un brano blues, però suonato nelle serate orchestrali, infatti l'orchestra era in questo caso praticamente in sottofondo. Un brano di Ray Charles che si chiama Hard Times e la frase principale del pezzo, che Eric canta, Hard Times, Who Knows Better Than I, cioè tempi duri, chi li conosce meglio di me. Perché sappiamo tutti che Eric Clapton ha avuto un periodo molto molto difficile nella sua vita, all'inizio degli anni 70, a cavallo fra il 60 e il 70, problemi di droga, di alcol, è stato veramente più volte sull'orlo di lasciarci le penne, ma per fortuna è rimasto come dice lui, perché si alzava al mattino solamente per bere e non voleva morire perché voleva continuare a bere. Una cosa molto particolare da questo personaggio, che adesso sembra un milord, ma veramente ne ha fatto un po' di tutti i colori. Comunque, questa era tratta da 24 Hours Orchestra, la novità che vi presento quest'oggi, che nel quale vi ho già parlato diffusamente facendo una gran confusione, per cui andiamo subito oggi con Recorded Today. Recorded Today, che si preoccupa di farvi ascoltare i brani nel corso della giornata in cui sono stati registrati nel passare degli anni, e che naturalmente anche oggi ha tantissime cose per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Sto andando molto veloce perché ci sono tantissime cose. Iniziamo dal 1969. È in scena uno dei personaggi che ha fatto da chioccia a Eric Clapton, si chiama John Mayall. John Mayall è stato uno dei pionieri del blues britannico e anche dell'elettrificazione del blues britannico, però a un certo punto nel 1969 decise di darsi una calmata, di fermare le chitarre elettriche, di fermare la batteria e approntò un quartetto completamente acustico. John Mayall, tastiere e voce, chitarra acustica e armonica, John Mark alla chitarra acustica, Steve Thompson al basso acustico e John Elmond al sassofono. Un quartetto veramente incredibile. Un consiglio da amico: cercate la band che formarono John Mark e Johnny Elmond, che si chiama appunto Mark Almond Band, perché hanno fatto due album assolutamente strepitosi. Qui ce l'andiamo ad ascoltare invece insieme a John Mayall. L'album, che si chiama Turning Point, è accreditato al solo John Mayall, niente Blues Brothers, per cui appunto, perché è solamente acustico, niente elettrico. Il brano che vi propongo, il brano di apertura, è una piccola riflessione, come dice lo stesso John Mayall, sulle leggi che regolano il rapporto fra giovani e droga negli Stati Uniti. Infatti il pezzo si chiama The Laws Must Change, le leggi devono cambiare. Con tanto di introduzione lascio stare. All right, mister, we're ready. Where's the announcer, man? Ladies and gentlemen, John Mayall. Hey, I'll say it again, John Mayall. That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Armand on tenor, alto, and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson. We'll be right back. impressions to say you're right and they are wrong. It seems to be the fashion to say you're right and they are wrong. You've got to see both sides. You find yourself in jail for long. But they are only doing a gig. Time, take the time to figure out how the issue got that beat. We'll be right back. John Mayall in grande compagnia, The Loose Must Change, il brano che ci siamo ascoltati, il brano di apertura di The Turning Point, album appunto di grandi cambiamenti musicali per questo personaggio che ha fatto la storia della musica blues in Gran Bretagna e che il prossimo novembre compirà 90 anni. Tantissimi auguri vecchio John, è stato tutto registrato il 12 luglio del 1969. Da uno dei pionieri del blues britannico a uno dei grandi bluesman irlandesi, forse il più grande, si chiamava Rory Gallagher, veniva da Ballyshannon, Irlanda, e purtroppo ci ha lasciato nel 1995 alla tenera età di 47 anni. Non prima averci regalato un paio di chicche con i Taste, la band in cui ha militato dal 1966 al 1970, e con 4 live album nel corso della carriera solista, di cui 2 doppi, e tutti notevoli, poi altri 3 live sono stati pubblicati dopo la sua morte. Fra parentesi ce n'è in giro un altro che dovrebbe uscire fra qualche giorno, forse dovrebbe uscire prestissimo, e quindi vedremo di cosa si tratta. Fra le mani ho un triplo CD che si chiama Blues, è una raccolta, nei primi 2 dischetti ci sono brani in studio, il terzo invece è dedicato a brani dal vivo, fra cui quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato il 12 luglio del 1975, ma non a un concerto di Rory Gallagher. Lo show che ci ascolteremo è accreditato, anzi il titolare dello show che ci ascolteremo è Albert Collins, altro grande bluesman, grande chitarrista, che ha come ospite appunto Rory Gallagher. Il tutto succedeva in Canada, non è ben specificata la location, ma era sicuramente il 12 luglio del 1975. Il brano si chiama You Upset Me Baby, Rory Gallagher, in realtà Albert Collins. Yeah. upset me, babe. Oh, she's something fine that you really ought to see. Now I'm trying to describe her. It's hard to start. I can't stop now, cause I got a very weak heart. You upset me. Yeah, you upset me, babe. What you do to me? Albert Collins e Rory Gallagher insieme in questa You Upset Me Baby, era il 12 luglio del 1975. Molto velocemente, prossimi ad arrivare dal 1988 sono i Dream Syndicate, grande band che viene da Los Angeles. Ha vissuto due vite, la prima dal 1981 al 1989, l'altra dal 2012 ad oggi, e per dare anche modo al proprio leader che è Stevie Wynn di portare avanti la propria carriera solista. Il primo album, che è stato ripubblicato lo scorso giugno con un sacco di materiale dal vivo, sarà protagonista di una prossima trasmissione, di una prossima prima parte di Città Fujiko Live Club. Adesso andiamo ad ascoltarci questo 12 pollici vinile, naturalmente un brano in studio e due brani dal vivo. Il secondo è registrato per una trasmissione televisiva che si chiama Snap, di una delle più famose radio di Los Angeles, KRCW. Se andate da quelle parti, ascoltatela perché è veramente fantastica. Dream Syndicate, era il 12 luglio del 1988, il pezzo si chiama I Ain't Living Long Like This. Man. Sandra D. I want to love her, but I don't know how. I'm at the bottom of the jailhouse, now we live it all like this. I can't live it all like this, can I, baby? Y'all hold a story about the jailhouse boys. Learn how they do it, but don't get caught. They got them all in the jailhouse. If you don't love me, why don't you let me go? come back, no. But oh, my darling, how can you say you should be free and I'm the one to pay? Viene da Burbank, California, lei si chiama Bonnie Raitt, un grande, grande personaggio, grande chitarrista, soprattutto slide, ed è veramente, veramente uno dei grandi personaggi della musica americana. Il suo primo album risale al 1971 e ne ha fatti veramente di tostissimi, e anche lei, come molti musicisti, purtroppo ha avuto grossi problemi di droga e di alcol, ma poi si è ripresa ed è tuttora in giro. Fra parentesi, mi è venuto in mente proprio mentre venivo in qua che l'abbiamo vista in concerto qua a Bologna in apertura proprio di Eric Clapton. Fu tantissimi anni fa, non ricordo più quanti a dire il vero, ma fu un ottimo concerto. E quello che vi ho fatto ascoltare è un brano che è tratto da un brano che si chiama Have a Heart, che è tratto da un doppio dischetto che si chiama Road Test, cioè una prova di strada in pratica, che è stato registrato in diverse location con diversi ospiti: Bruce Hornsby, Kim Wilson, Jackson Browne fra gli altri. Nel caso particolare di appunto Have a Heart è stato registrato il 12 luglio del 1995 in quel di Portland allo Schnitzer Auditorium. Find a man and take me home instead of... Sempre dalla California arriva lui, Mr. Ben Harper. Baby, are you someone I can? usualmente gira o in solitario, come è successo negli ultimi tempi qua in Italia, o insieme a una band che si chiama Innocent Criminals, la sua band di supporto storica, che vedremo anche in Italia, oppure è già passato, non me lo ricordo onestamente. E, però a un certo punto decise di prendersi una pausa dai suoi amici Innocent Criminals e si appoggiò come backing band a una giovane band che si chiama Relentless Seven. Il tutto è successo fra il 2008 e il 2010. Hanno fatto solamente un album in studio e uno dal vivo, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato al Montreal International Jazz Festival il 12 luglio del 2009. E fu una nuova vita per Ben Harper, questi ragazzi pompavano come dei matti, un po' quello che è successo con il Young, con il Promise of the Real. E ce ne andiamo ad ascoltare il brano che ho scelto per voi. Si chiama Why Must You Always Dress in Black? Perché tu vesti sempre di nero? Ben Harper and the Relentless Seven. C'è stato un piccolo problema col lettore, vediamo se riusciamo a recuperare. Mi sembra che ci sia qualcosa che non vada. E niente, passiamo ad altro, passiamo a quello che andrà a concludere questa tribolata, a questo punto, rassegna di brani registrati il 12 luglio. Siamo al 2019. Quello che ci dovevamo ascoltare era una cosa del 2009 di Ben Harper. Mi scuso con Ben Harper e anche con gli estimatori suoi che sono all'ascolto, ma è successo qualcosa che non riesco a capire e non riesco a sistemare. Comunque andiamo a concludere con una band scozzese, vengono da Glasgow, band che si chiama Bell and Sebastian. Sono in giro dal 1996, sono tuttora vivi e vegeti, sempre capitanati da Stuart Murdoch, che è il leader. Hanno fatto 4 album live, l'ultimo dei quali è quello che ci andremo ad ascoltare, che si chiama What to Look for Summers. E prima però, naturalmente, vi voglio ricordare che vi siete beccati un paio di ore di musica dal vivo, il tutto da Città Fujiko, da Radio Città Fujiko. La trasmissione si chiama Città Fujiko Live Club, e forse anche il lettore CD risente del caldo. Comunque chiedo scusa ancora una volta e vi ricordo che l'appuntamento con chi vi parla è Nevio, è per mercoledì prossimo, sempre dalle 10.30 alle 12.30, per quella che sarà l'ultima trasmissione della prima parte di questo 2023. Mi scuso ancora una volta, ci andiamo ad ascoltare i Bell and Sebastian con questo brano che è stato registrato all'Union Transfer di Philadelphia, perché i brani contenuti in questo What to Look for Summer sono stati registrati in diverse epoche e in diverse circostanze. Il brano in particolare si chiama Stay Loose. Loro sono Bell and Sebastian. Ciao a tutti da Nevio. Have some toast instead. I was sleeping maybe 3 hours. You said you should get to bed. I was waiting at the church door for the minister to show. I was looking end of the new year, you said, walk before you crawl. I was feeling like a loser, you said, hey, you still got me. I was feeling pretty lonely, you said you wanted to. Before you speak, sometimes I'm a little seedy. You said everyone is weak, but now I feel a little better. Is this something I can do? But I never heard the answer. I never had a clue. But I know it could be me. I'm always asking for more.